Gianni di Chiaramonti, oh Gianni di Chiaramonti, sono qua da almeno mezz'ora. E a me dai una volta in due, cosa ne so io, guarda, cosa vedo nel monte di Usilo, mi sembra strano allora che stai arrivando solo così, mi chiamano per ci parlare molto di più. Certamente c'è il fucile a scarico, cosa vuoi ti dica? Hai prendite, dai, un accorgimento, dai. Gianni, come ti sto arrivando io? Giancino Rabona, quindi un'altra forte. Negativo, ero già forte da prima, qua mi sono spostata da Via Pietronelli, sono in via Guido Sieni, sempre a Monte Bianchino. Volevo sapere come ti stavo arrivando. Allora, se sei in questo Monte Bianchino, sei arrivato con un sacco di notte. Allora ci sono persone, perché la chiede là. Positivo, ma lo sai dov'è Monte Bianchino? Sì. Negativo, non lo so. Parte alta di Sierra Sierra. Attenzione agli amici di Alghero, dal Grotte. Roger, vi vorrei invitare a visitare comunque la pagina di Facebook del sito dell'associazione, che è Nikola Tesla, associazione CV Nikola Tesla, Nikola scritto con la K invece che con la C. Dopodiché nel caso vi faremo sapere quelle che sono le iniziative dell'associazione stessa. È una pagina di Facebook, si chiama, è intitolata Associazione CB Nikola Tesla, Nikola con la K. Avanti Gianni, ti sto aspettando, aiuto. Che cosa questo Nikola Tesla? Che Nikola Tesla è la persona grazie alla quale tu puoi espandere nell'etere e irradiare nell'etere la tua voce. Poi Gianni di Chiaramonti, Gianni di Chiaramonti, Gianni di Chiaramonti, no, è quello che ha inventato, scoperto, le onde radio esistono già in natura, le onde radio, le onde elettromagnetiche, diciamo, generate da un apparato radio, tu pensavi fosse Marconi, invece no. Io pensavo, le onde radio. Ui. Vedi, adesso come apriamo l'associazione, la sede dell'associazione, faremo anche delle lezioni. Mi non mancare, mi. Va bene, va bene, dai. Va, aspettate come vedi a Usilo, dai. Lo fanno in tanti, no, la buona. Guarda, anche il tasso di monte buonaria. Abba di Roger, ma stai venendo o me ne sto andando? Mi sa che me ne sto andando. Ma se sei un mandrone, se ui. Ma pure tu, dai, se sei in giro, una volta di un altro, dai, però per riuscirci a organizzare sei già per il due, ragazzi. Puoi dire, il segreto che di Nerda, sono il nome, aiuto, alza. E compera 25 tanti, 25 metri di campo di aver reggito 113 perché il reggito qua poco non c'è più, Sto dicendo che se andiamo ti testo subito col tester la linea e vedo se ce l'hai cortocircuitata. Negativo perché sono tutti e tre tiri, sono tre cazzo, tre patate, tutti e tre danno lo stesso risultato, è possibile tanto che siano tutti e quanti bruciati. Quello, non è quello, vanno visti un attimino, vanno visti col tester. E la piccola Alghero dove l'abbiamo lasciato? C'era l'amico d'Alghero. Con che apparato stai uscendo? Tappa Roger. Tappa, ma c'hai... E che antenna hai? Bella, bella, ma modificata, nel senso che la Ringo nasce senza i radiali. Perché io me la sono autocostruita con i tre radiali. Sì, è buona perché gli fa un buon piano di radiazione di massa. Come le faccio qua? Qua c'è bene, non c'è bene. suo si chiama Super Ringo, se non sbaglio, ma è sempre una mezz'onda, no? Papa di Roger, ho capito, dai. Allora c'hai un'ultima stazione, ma stai andando liscio? Conosco la tipologia, no? Perché sembrava un attimino che avessi qualche po' di whisky sotto. Attenzione Falchetto se si è rientrato. Negativo. Vediamo un attimino se è entrato il mio amico. Attenzione lo Sparviero, Claudio lo Sparviero se sei in onda. Attenzione Claudio Sparviero. Attivo Gianni. Attivo, grazie. Sento, mi dispiace. Ma sicuramente non è ancora entrato, qual è il problema? Si entrerà stasera, dai. Gianni di Chiaramonti, quando vuoi, aiuti, organizzati che mettiamo a posto questa stazione, almeno esci. Allora, facciamo una cosa. Come veniva l'apparato, diciamo così, andiamo così, non facciamo insieme. Vabbè, quando ritiro l'apparato, dai, perché mi sto prendendo un altro nome, inutile che ci metto quello fritto. Non è vizio, è buonissimo anche quello, però non mi piace. Lo prendo con le bande laterali, così almeno se lo facciamo facciamo bene tu. Questo vizio non ha le bande, capisci? L'apparato è. E soprattutto con che antenna stai uscendo? Ma non c'è niente che sta, è tutto da piazzare. Ho tolto tutto a casa, per quello che modo la è tutto da piazzare. Fai di Roger, dai, ma l'antenna non hai neanche un'antenna di riferimento, non c'hai niente. Però ero così, a te prendi il gran turbo, prenditi la parte qua, e qua, e là, adesso non so più quale prenderti, perché in effetti questa massa va sì, sta andando bene, ma la lingua lo stesso è visto, sta andando bene. Guarda, per il tipo di radiazione che ha, a te ti va meglio la Ringo senza radiali, che irradia a 360 gradi, soprattutto in altezza, ti serve quella lì, un'antenna che non irradi in orizzontale ma anche in verticale, quindi prenditi una Ringo, spendi 38 euro e la piazziamo insieme, ti prendi un bel palo telescopico e vedi che la piazziamo insieme e esce una pomoletta. Facciamo così, dai, come c'ho l'attrezzatura, tizio, dai, come c'ho l'attrezzatura, e lo facciamo, dai, lo facciamo bene, e fornati tutto quello che ti serve, va bene, ci sentiamo alla radio, poi con Claudio prendiamo l'amplificatore, così, quando lo prendiamo lo piazziamo e vediamo, facciamo anche il controllino, e vediamo un po' com'è. Fabio Rogero, ti sto dicendo, non ti preoccupare, gli facciamo una cosa ben fatta, con i contro come si suol dire, dai, ma tu c'hai un muro dove piazzarlo, soprattutto il terrazzo dove piazzi l'antenna, che come è fatto? Ascolta, allora, casa mia copre 360 gradi, cioè ho spazio libero, fidati di me, spazio libero, allora l'unica antenna da solo che c'è è quella della le altre sono tutte a pezzi francamente di vita, quindi essendo la casa più essendo più cantonale articola diciamo, quindi è abbastanza alta, dai. Ma quello che ti dico io è questo, il terrazzo com'è? È un terrazzo col tetto a spiovente oppure è un terrazzo piano, nel senso dove c'è il terrazzo sopra? Allora c'è il tetto e praticamente io posso salire sopra il tetto, allora praticamente il terrazzo è sopra il tetto è sotto e il terrazzo è sopra, è strano come stare, non te lo posso spiegare bene, perché il tetto praticamente io col terrazzo supero il tetto, capito? La parola dire, comunque si può lavorare bene, sì. A voglia, l'unica cosa che bisognerebbe è piazzare il palo, perché il palo perché è molto piccolo, dove ci avevo prima, e i radiali erano distanti da terra, almeno 80-90 centimetri, ho modificato il palo, come lo volevo mettere io, è alto almeno 2 metri e mezzo da terra, recupero, cambiando posizione, almeno 4 metri in più. Roger, dai, vedrai che già facciamo un bel lavoro, non ti preoccupare. Bene, grazie, va bene. sento più, mi è sembrato prima di sentire che stavo andando in QRT. Ah, va bene. Quindi chi c'è rimasto, io e tu, e quello che avviene passa. Non ti passa. Per me non ti passa, per te? In gruppo ce n'è. Scherzo naturalmente, attenzione all'amico Alghiero se copia ancora da questa parte della stazione Grotte. Tra l'arringo senza radiali ce l'ho io, soltanto che l'ho modificata, l'ho fatta simile alla tua. L'arringo ha un'irradiazione un po' particolare, tu immaginati una lampadina, l'arringo irradia così, cioè irradia sia in verticale che in orizzontale. Se tu sei in una zona abbastanza alta, l'irradiazione verticale è tutta roba sprecata, quindi conviene mettergli un piano di massa buono, composto anche da dei radiali, in modo tale che l'irradiazione si abbassi. E si trasforma come radiazione, come tipologia di radiazione, una mezz'onda in una 5 ottavi. Quanto l'hai pagata? Capa, tu immaginati che quella senza radiali costa 38 euro, e per fargli la modifica e mettergli i radiali ci vogliono 5 euro, quindi con 42 euro, 43 euro hai risolto, capito? Non è che va bene lo stesso, va meglio, sicuramente la tua è superiore perché c'è così dalla fabbrica, però diciamo che per arrangiarsi già va bene anche quell'altra. Se coincide, riprendi Gianni. Va bene, grosso, va bene. Che dire? Mi fa piacere che riesca a comunicare anche con Azzurro queste coordinate, perché la prima e la seconda volta che sono riuscito a collegarmi con Azzurro è stata da Monte Bonaria, cioè dal punto più alto di Ulvio, solo da lì. Mentre invece anche qua nel mio paese riesco a comunicare con Alghiero e anche l'altro amico che è entrato ha comunicato 5 minuti e poi se n'è andato e l'ho sentito, passo però l'ho sentito, quindi devo dire che la zona è buona, riesco a tirare fuori il meglio. L'unica cosa è che avendo io una postazione fissa magari avrei tirato meglio, comunque io sto modulando dalla fessura e sono andata alla grande. Conferma? Sì, Roger, confermo. Grande, confermo. Sei andata abbastanza bene. Anche se sei controllato dalla vettura va benissimo. Sei fatto abbastanza bene. Vediamo un po'. Perché non ti capo di tira? C'è ancora, guardi. Campa negativo, eh. Vediamo se c'è l'altro piccolo aereo. Guardi, se c'è sei. Fa di Roger, ti aspetta un attimo. Un problema con la paramobile. Attenzione Antonio, Grotte. Leo C. Eia, dove sei? Zona Usilo. Zona di Usilo. A zona di Usilo, sì. Perché c'era la tua 25 stamattina, ti stava cercando e mi ha detto aspettare, non l'ho sentito, ho detto no, qua non ho sentito, e Antonio, mi dispiace. Leo Luigi, ti ringrazio. No, adesso gli faccio una passa, dai. Ti ringrazio. Ah, zona Ugilo, bassa o alta? Zona Ugilo, alta. Via, dalla montagna. Appa di Ruggero. Via, va bene, dai. Io ero qua da... dall'amico nostro, Gigetto Vulcano. Così, per prossimo, ho passato a trovarlo. Ma dove sei adesso? Passa la mia tappa. Stai arrivando fortissimo, è qua. Tieni di bianco per me che sto facendo manovra. Gamma del Rogero. Chi c'era Claudio, c'era in frequenza? Sai che è rientrato di Vulcano? Luce! Hai la possibilità di entrare per fare un piccolo collegamento in modalità FM? Più tardi, dai, ciao già. un sistema scappanogeno, dai, ce la risentiamo. Ok, scappa le rogge, faccia ti chiudo. Positivo, dai, ci sentiamo. Dai, Luigi, ciao, ciao. Ciao. Saluto qui, si è rotta. Anche Franco, davvero. E tutti quelli che stanno ascoltando. Va bene? Franco. Va bene, dai. Saluto a tutto, ciao, ciao. Ti sento male già, eh. Ora rifacciamo? si è scelto male perché c'è troppo QRM, non ce la faccio a tirarti fuori. Aggancia un po' di batte, sì. Aggancia un po' di batte, quale batte? Storia, lascia perdere che non ne ho batte io qua. Guarda Gianni, attenzione Gianni, Chiaramonti. razzo si chiama Bazooka ed è fatto con una lattina. Lì ci vuole della carta a forno, poi già te lo dico, ti facciamo vedere il progetto, dai. Va bene, dai. Sto saldando un attimino, sono i QRX che vi ascolto. Non è entrato nessuno mentre ho fatto bianco, no? Attivo. Veloce, riprendete. Bella. Gianni, li chiamo tutti. Thank you. scoppiare l'altra strada, perché lì c'è una persona che dice che è un bel pindaccio, o già. Sindaco di Proano che dice che è un bel portaiella. Dovesse entrare Claudio, chiedi, ma è vero quello che ha detto Leoncino, che il sindaco di Provaghe canto portaiella, vedi cosa ti risponde. Vuol dire che non è uscito dal trabacco, già, vuol dire che esce tardi dal trabacco, hai capito, poi faccio una doccia e rientra a casa, fa una doccia e poi non lo so se attacca stasera, non lo so. Che noi eravamo in quel paese, in quella montagna, ci ascoltavi bene a noi. Eravamo io e un'altra persona e siamo saliti su alla montagna di Anato Perusino, hai capito quella montagna là? Per carità. Alla grande, lì arrivavo il cazzo forte, già, arrivavi proprio forte, forte, forte. E avendo una di quelle montagne così, il cazzo qua, lo sai come arrivi? Oi. Thank you. super cordializzato da questa parte in grotte. Roger. Sempre in quel Rix che sto saldando e fermiamoci in ruota. Accento Antonello. E Santi, sei sconvenente. No, ti ringrazio, qua non è Antonello, ma qui è Gianni, avanti per adesso. Polverone dello Scarsierra. Polverone, polverone, mi sembra di averlo già sentito, sushi sushi, no? Kappa kappa. Siamo venuti, di 47, polverone, da dove stiamo arrivando? Monte Bonaria, Ucilo. Vai di Roger. Ari, Ebe, quello ce l'ho chiesto, Mi sento abbastanza, ce l'ho abbastanza. Attenzione. Break, scusate. Polverò. Abbiamo rischiato allora di incontrarci da questa parte Antonio Grotte, ero lì una mezz'ora fa. Io sono salito in questo momento a fare un giro. Roger, ma sei già sulla piazza? Kappa kappa, sono proprio sulla piazza. Per non dirti le bugie, ci dovrebbe essere ancora forse una panda posteggiata lì al centro dalla parte dove si vede Sassari. No, mi sa che è andato via, c'è una Toyota e una Lancia adesso. Kappa sì. Una Toyota e una Lancia, no? Ma ti ripeto, sono andato via da poco, dai. Ma stavi chiamando Antonello, ma Antonello Barracuda. Antonello, sai come si chiama? Pomposo, mi sembra. Ragazzi, tipo Pomponio, comunque non so se ci sia in ruota. Ti rilancio Gianni da Chiaramonti e sono in quel Rix, dai. Mi sentite, mi hanno ascoltato, siete tre e ci sentiamo dopo. Kappa kappa. Pomponio. Avanti. Pomposo, la serie da vuol dire. Vai, cosa vuol dire? Io lo confondo sempre, quando lo chiamo Trondione, quindi. Così non ci sono errori, no?